Poi ti rivedere più bello di chiudere le porte, lasciare vuoti corridoi disordinati come la prima volta che siamo entrati, la prima volta che ci siamo sdraiati, la prima volta che ci siamo baciati. Mi hai sorriso e ti ho sorriso in quel modo, era bello quel disordine. Noi ci trovavamo anche al buio, era bello quel disordine. Noi ci trovavamo anche al buio. E oggi mi ritrovo a pensare che forse le risate che ti faccio fare non valgono poi così tanto, anche se so che non è così, che non la pensi così. E le tue mani erano più comode delle mie tasche, i tuoi capelli più profumati dell'aria pesante di questa città che non ha più niente da offrirmi. I tuoi sorrisi erano una novità importante che speravo durasse un po' di più. Avevo vinto la battaglia, ma la guerra è sempre loro. Anche stavolta ne usciamo a testa bassa, la tua forse un poco più alta, per fortuna della mia sicuramente, la tua forse un poco più alta, per fortuna della mia. Non avere paura di dover andare via, ma nemmeno di tornare, dovessi avere nostalgia. Non avere paura di dover andare via, ma nemmeno di tornare, dovessi avere nostalgia. Dovessi avere nostalgia. Dovessi avere nostalgia.